sono stanco, o lo salute. A tutti buonanotte. Cosa c'è? A Frenini. Mrs. Rans, fra poco, no, anche di cinese, mi disperde, non mi disperde, ragazzo, e mi si ferma, mi compagnisco. Se degli ubriachi e capisca che vieni, ti volna, provalo, ti volna molto caldo. meglio. Dove lo vamo? Ruth? Ezechiel? You will make us mine. se la ora mi risallaccio. L'avventuriera mi dice che sa il covo del bandito e che stanotte a mezzanotte vada alle palme. Quella Miguel Torrena è una canaglia, Ashby, non vi fidate. Vendette di donne innamorate, ad ogni modo ranz, tengo l'invito. Che fine, pappagallo, siamo lì. Scusa, gente, ci sposerà di tutti. Che poi gente, ma non la pensare sul cielo. Che te consulto al mio paese, che barattola la città. Ma, povera Titti! Bene, ma troppo giù, ci sono cicce, non cicce tristi. Ciò che c'è, brutte di vole, superaggio. Non l'ho mai visto, sembra di San Francisco, ma chi è sto whisky ed acqua? Whisky ed acqua, chi sono questi maschi? E quello che gli ho detto, alla polca, si vede il whisky schietto. Ben vento, gli aggiusteremo i ricci. Nessuno mai m'amò, son messo in cammino. E tratto sol dal fascino dell'ora, e questo il suo velo m'ha ingannato. Giocare il vostro nome forse che qui si sa il nome della gente. Chance, chance. E poi vengo da Sacramento. Invenato fra voi, Johnson di Sacramento. Grazie. Vi ricordate di me? Sì, se anche voi mi ricordate. E come non potrei, fu bel sentier che vena potrei. Fu nel tornare, offriste un primo di Gesù. E poi vi dissi, andiamo a coglierle. Dentro che balla con quel candido fino giunto da Sacramento. Lascio.

in quel barile Johnson c'è un tesoro, ci ripongono loro ragazzi e mi lasciano così. Donne, no, io rimango qui a vegliarlo attorno a me per uno. Sono notte, sono notte, I'm sorry. guardo mi